Boys and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Drago, perché hai la mascella? Sembri Belpietro. Perché facendo così sento meglio, sennò diventa... Ma sei prognato, non puoi stare prognato. Non posso stare prognato, devo stare... vedi, non sento più niente, sono le orecchie importa, un po' così. Non importa, ti suggerisco io. Allora, cominciamo la settimana con un annuncio importante. Andiamo in ferie. Ma no, Kappa, anzi, facciamo gli straordinari. Ma come? Ma anche gli straordinari, Drago, guarda che qui ci sfruttano. Zitto, dai, allora, attenti, adesso lo diciamo in maniera un po' più, come dire, ufficiale. Sì. Martedì 22 marzo, le 21. Chiedo Asilo si trasferisce sul palco della Sala Collina in via Monterosa a Milano e ci sarà una puntata serale dedicata all'Unità d'Italia. Ma col pubblico? Certo, anzi approfittiamo per invitare tutti gli ascoltatori che vogliono venire a vedere Chiedo Asilo Live a prenotare mandando una email al solito indirizzo chiedoasilo@radio24.it. L'ingresso è gratuito. Sì, però attenzione, perché il fatto che l'ingresso sia gratuito non vi consente di prenotare e poi di non venire e dare buca. Certo, si fa così, no? Si prenota. Vabbè, tanto è gratis. No, invece bisogna prenotare e bisogna venire, altrimenti si disdice. Ecco, va sempre bene. A Chiedo Asilo è radio24.it. Sicuro? Chiedo Asilo! Lo sapevi, Kappa, che se un bambino o un ragazzo non va tanto bene a scuola non c'è niente da fare? Cioè è inutile spingerlo a far meglio. Cioè, lo dico agli scienziati, Allora, ok. A essere precisi, bisogna calcolare una specie di rapporto. Adesso ti spiego. L'essere secchioni dipende da tre fattori, che sono la genetica, l'ambiente e l'istruzione. Però... Ecco, questo studio anglo-americano congiunto dice che l'ambiente in cui i bambini crescono conta abbastanza poco. L'istruzione conta un po' di più, ma quello che davvero conta è la genetica. C'è poco da fare, quindi. Infatti tu sei sordo, i tuoi genitori erano sordi. Certo, tu non capisci niente di matematica, nonostante tutti gli sforzi che tu faccia, che invece non ne fai abbastanza. Ne ho fatti in gioventù, io le ho provate tutte. Sono anche legato alla sedia come Vittorio Alfieri, però ormai sono tanti anni che ho rinunciato a capire la matematica, mi sono un po' rassegnato. Si vede che i tuoi geni, caro Drago, non sono tanto geniali. Questo è molto divertente. Certo. Vabbè, però studi come questo non fanno altro che disilludere i poveri asinelli, quelli che arrancano un po' in classe, no? Il messaggio giusto dovrebbe essere: applicatevi, impegnatevi, mettete un po' di entusiasmo quando seguite le lezioni, quando studiate, e vedrete che i risultati arriveranno. Sì, ma scusa, ma se l'importante è la genetica... Vabbè, ma così giustifichi tutti quelli che si arrendono al primo ostacolo. Ho capito, no? Ma se quel che conta è la genetica... No, quello è esattamente il contrario di quello che dice la mamma tigre cinese, quella di cui parlavamo l'altra volta. Sì. Lei afferma che a furia di darci si impara a fare qualsiasi cosa e che l'esercizio continuo è l'unico sistema per apprendere in modo magari meccanico ma definitivo nozioni, gesti, eccetera, eccetera. Quindi... Sì, ho capito, ma se quel che conta è la genetica... Forza Italia, come altre sigle, fanno parte del passato, passato, passato. Il futuro potrebbe essere quello di un partito popolare, popolare, partito popolare, popolare, popolare, popolare. E ora, bambini, ricreazione. Ricreazione di fine mese, vai. Sei contento che stia finendo febbraio, non ho capito. Cioè, festeggi. Certo, ma scusa, finisce febbraio, comincia la primavera. Ma no? Finisce Sanremo, finisce febbraio, comincia la primavera. Sì, però non capisco lo stesso il motivo di tutta questa gioia. Perché? Primavera o non primavera, dobbiamo continuare a venire all'asilo tutti i giorni, tranne il weekend. Quindi. Ehi, laggiù voi due! Ma bambino Alberto, ma ormai sei fisso lassù a far da vedetta, sull'albero. Eh sì, ormai mi sono anche abituato. Tu vivi sull'albero ormai, come il barone rampante. Come chi? Ma no, lascia stare. Niente, bambino all inclusive. Uè, ancora sto nome è storpiato? L'ho già detto tante volte, mi chiamo Alberto. Però sì, vabbè, ma io non capisco una cosa, però se la vicenda della piccola vedetta lombarda è quella che conosco io, quella di De Amicis, di cuore... È molto breve, cioè finisce subito. Che bisogno c'è di provare settimane e settimane? Cioè neanche Ronconi. E infatti sono poche pagine di libro. Ma io non so neanche quante sono, io le pagine non le ho mai viste. Come no? Io ho solo imparato a memoria quello che devo dire e fare qua sopra. Sì, vabbè, ma non provi con nessuno, scusa. Nel senso, sei lì sull'albero, però non c'è nessuno che ti porge le battute, che ti dice, non so, che il narratore magari che dice quello che... Niente, sei lì da solo, cosa fai? Cos'è che fai sull'albero? E in cosa consiste questa prova, l'allenamento? Cosa fai? Eh beh, in effetti, sai che non ci avevo pensato. Vabbè, ma tu cosa fai? Guardavi davvero gli austriaci? Cioè, allora cosa ci faccio qui? Appunto, sarebbe ora di scendere, Tra l'altro lì sei in buona compagnia con i corvi, Sì, sì, no, qui sopra c'è una famigliola di corvacci. Una famigliola? Veri, Sì. Mi alietano le ore. Vabbè, ma forse è meglio se scendi ad alietarti con i tuoi compagni d'asilo, piuttosto che stare lì in mezzo ai corvi. Portano sfortuna poi i corvi, C'è il fatto che i corvi non è che fanno come noi, che quando dobbiamo fare la cacca... Ma cosa... Vabbè, la cacca dei corvi... Cioè non è che alzano il dito e chiedono il permesso di andare in bagno. Beh no, i corvi no. No, loro la fanno dove sono, senza preavviso anche. Cioè stanno volando, che sono lì che mangiano un insetto e nel frattempo plop. Ma no, mi hanno cagato in testa ancora! Vabbè, aia. Ah, 10.000 euro di multa per turpiloquio, bambino Alfa. Sai cos'è il turpiloquio? No, però suona male. No, malissimo, infatti è difficile anche da dire. Vuol dire parlare male, pure dire parolacce. Allora, quando ci vuole, no? Vabbè. E poi io non sono il bambino Alfa. E nemmeno il bambino Romeo. Io sono il bambino Alberto. Va bene, dai, basta che non ti metti a cantare la tua canzoncina, poi va bene, bambino Alberto, bambino Alberto. L'unica cosa negativa qua sopra è che non si mangia mai. Appunto, allora scendi, no? Dai, immensa, guarda che aspettano te. Nell'aria si insinua un profumino, mi stuzzica il naso, ma cos'è? Sa un po' di letame, mi viene una fame immensa, aspetta, non me. Eccomi in fila ad aspettare, si fanno scommesse sul menù. Chi dice fagioli, chi dice banane, ciliegie, biscotti, coniglio di cane. Ma il cuoco in vacanza, c'è una sola pietanza. Finocchi cotti, finocchi cotti, finocchi cotti per me. Per me, per te e per tutti voi, perché i finocchi cotti sono un fatto collettivo. Grazie. Grazie. Vabbè, ma non scendi allora, dai, scendi. No, in messa ci sono i finocchi cotti. Sì, ma se scendi abbiamo un sacco di ricette a base di finocchi che possiamo insegnarti. Arrivano tutte dai tuoi ascoltatori. Vuoi un esempio? Il flan di finocchi in foglia di porro. Flan di finocchi in foglia di porro. Due porri, 600 grammi di finocchi, un limone verde, un uovo, due album, cioè due albumi, e burro e sale. Due album, c'era scritto così, giuro. Vabbè, anche se dovessi convincermi di farle. Vabbè. E il limone verde dove lo prendo? E i limoni sono gialli, no? Allora usane uno giallo, chi se ne frega. Ma no, se la ricetta dice che il limone deve essere verde, allora deve essere verde. Ma ti metti tu a fare il... vabbè. Ma i porri ce li hai, bambino briscola? No, io porri no, Quelli via, mio zio Remo ha i porri, Zio Remo, allora. Orto? Ma no, ma quale orto? Mio zio è pieno di nei, è pieno di porri, di escrescenze carnose, orribili, Vabbè, lasciamolo. Mio zio Remo è un mostro, Sì, Tito, hai ragione, stiamo andando fuori tema. Però, almeno quando c'è la ricreazione, vuoi farci il piacere di andare a giocare con i bambini invece di star qui a sentire tutto quello che diciamo? Ma cosa fai? È un discorso troppo complesso. Ti ho detto, capisce 200 parole, ma non... Però capisce quando andiamo fuori tema, quindi voi, non ragazzi, capisco questo. Sapete cosa vi dico? Cosa? Che mi avete convinto. Vado in mensa. Allora scendi dall'albero e vai in mensa, sì, però, bravo. Però adesso il problema è che la mensa è chiusa. E come chiusa? Sì, devi prenotare il giorno prima, lo sai, ti sei già dimenticato il regolamento. Ma già, è vero. Devi chiedere il voucher il giorno prima e poi ricordarti di andare a ritirarlo almeno un'ora prima dell'inizio della distribuzione del cibo. Lo so, Tito, dai, sembra un'assurdità, però il regolamento interno. È un'assurdità, quindi... dai. Ma allora, cioè, se io prenoto adesso e mangio domani. Esatto. E fino a domani? Ma non ce l'hai la schiscetta? Ce l'avevo, ma l'ho mangiata. Ma hai mangiato la schiscetta? Sì, scatola e tutto. Amo il pollo vivo, lo mangia chi è cattivo. Sono animalista, abbasso lo specista. Specista? Chiedo asilo. Sì, sono gli specisti, sono i razzisti, cioè sono gli uomini, anzi, sono quegli animali della razza umana che credono che gli animali non di razza umana siano inferiori a loro stessi. Allora direi che l'ingresso è vietato agli specisti il 22 marzo. Per Chiedo Asilo Live. Chiedo Asilo Live.